Avvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Piovono gol sul Parma, piovono gol sulla Roma, che a questo punto ha tutta la pressione del mondo sulle spalle perché deve questa sera rispondere al 7-0 della Juventus sul Parma, tutti sul carro di Massimiliano Allegri. Ciao Carlo Genta. Ciao Giovanni. Dai, sentiamolo subito Allegri ai microfoni di Sky. Con un difensore in più magari, dipende dalle esigenze, le necessità della partita, è un sistema di gioco con cui la squadra ha vinto 3 scudetti, facendo bene. Quest'anno abbiamo fatto bene all'inizio, sviluppando quel sistema di gioco un po' in modo diverso. Noi abbiamo giocato solamente 3 partite, secondo me, a Empoli, a Sassuolo ed ad Atene. Direi che all'inizio cercavamo di sviluppare il gioco in modo diverso, poi ci sono venuti a mancare dei giocatori, però credo che non è un sistema di gioco che fa la differenza, ma è il modo in cui si interpreta. Ilaria. Oh, perché il tema di oggi è questo, non tanto il fatto che la Juventus abbia battuto il Parma, 7ª sconfitta nelle ultime 8 partite. Evidentemente il 2-0 di settimana scorsa contro l'Inter era beneficenza della banda Mazzarri. Il tema è quello che diceva, e lo abbiamo sentito, Massimiliano Allegri, che oggi ha giocato con l'albero di Natale. Si è preso la Juventus. Si è preso la Juventus. All'inizio era stato molto intelligente, molto furbo nel non sfruttare il lavoro di Conte, e poi è venuto anche il suo momento. Ha avuto coraggio in Champions League perché in una partita decisiva ha cambiato la pelle della squadra. Quella di oggi non so quanto sia giudicabile. Il Parma è davvero un disastro, non so se Donadoni passa a nuttata. Gol bellissimo quello della Juventus, ha segnato tutti gli attaccanti, meglio che così non si può. Sì, ce n'è uno meraviglioso di Tevez che vi consiglio, dopo che avrete ascoltato fino alle 19 questa trasmissione, di andarvi a vedere, perché si è fatto 60 metri con il pallone. Qualcuno su Twitter scriveva dai tempi di Ronaldo, quello dell'Inter, che fine anni 90 non si vedeva gol così, per potenza tecnica, capacità di controllo di se stesso, del corpo, del pallone. Sì, ha fatto il classico gol da cinema, però sono stati molto belli anche gli altri, Gio. Sì, 800 24 00 24, telefoni aperti da qui fino alle ore 19, perché noi vivremo insieme la lunga vigilia che ci porta a Roma-Torino e a Inter-Verona. A proposito, venerdì abbiamo convocato tutti i mazzarriani, ne abbiamo trovati 2, Carlo. Oggi telefoni aperti per tutti gli interisti, quelli che vanno a fischiare, quelli che vanno ad applaudire. Voi dovete chiamare 800 24 00 24 e dirci perché lo fate. Ma la cosa curiosa è che al di là dei tifosi, anche noi siamo qui in 3, normalmente, io, te, Pardo, eccetera. Grosso modo siamo tutti a favore di Mazzarri, sì. Cioè, non vedo grandi argomenti di discussione. Sono tutti quelli fuori di qui che sono contro. Sono gli interisti. Poi vivremo la lunga vigilia della Roma, poi alle 18 c'è Fiorentina-Napoli, che è una partita interessantissima. È iniziato il Gran Premio del Brasile, tutto più o meno come da griglia di partenza, quindi Rosberg, Hamilton, Massa, Bottas. C'è solo da segnalare un errore di Vettel che è stato superato da Alonso. Insomma, siamo qui, 800 24 00 24. Ho l'impressione che questo 7 bello della Juventus sul Parma metta un po' di pressione alla Roma questa sera, alle certezze di Garcia. Ma guarda, mette pressione di sicuro. La Roma non ha un impegno impossibile, perché se il Torino è quello di Helsinki gli passa sopra uno schiacciasassi. Però la giornata sta dicendo che è tutto veramente fluido, cioè non ci sono grandi motivi di contestare Mazzarri, di mettere pressione a Inzaghi, insomma tutte stanno facendo più o meno il loro. La Lazio, che abbiamo dipinto come la squadra più equilibrata tra quelle che puntavano al terzo posto, eccetera eccetera, oggi ha perso con l'Empoli, finita la striscia vincente. Se il Napoli vince a Firenze, non è facile, lo so, però è terzo da solo, quindi anche sul Napoli si era messa tutta questa pressione, sul Napoli, su Benitez, eccetera. Hanno le loro colpe di sicuro, finiti fuori dalla Champions League, però oggi, stasera potrebbero essere, per qualche minuto, per un paio d'ore, potrebbero, vincendo a Firenze, sarebbero a un punto dalla Roma. Sì, sarebbero quasi in corsa per quello che vuoi, per giocarsi lo scudetto. Oh, ti faccio sentire ancora Allegri, perché è l'uomo del giorno Allegri. Io dico sempre che è meglio rubare 4-5 palloni di intuizioni che 15 di contrasto, perché quando vai a contrasto la palla non sa mai dove finisce. Se le rubi di intuizione riesci a sviluppare meglio il gioco. No, su questo credo, chiaro, non abbiamo nessun problema, e credo che alla fine ci sono delle squadre in Europa che giocano con 4 giocatori offensivi eppure insomma non soffrono dietro, soffrono come si può soffrire durante una partita. Paradossalmente ad Empoli eravamo in 5 di dietro, abbiamo subito 2 occasioni clamorose. Stasera eravamo a 4, abbiamo subito niente, martedì con l'Olimpiakos uguale. È come lavora tutta la squadra, è normale, più corti siamo, più attaccati siamo, è più facile per tutti difendere. È stato lì con le grandissime soddisfazioni Massimiliano Allegri. Mezz'ora che parla del modulo. Sì, noi dobbiamo fare anche un po' di autocritica. Anche settimana scorsa io stesso avevo detto può piacere o no, è una Juve pragmatica, è anche una Juve che evidentemente sa giocare bene anche col modulo che vuole Allegri. Mi chiedo e chiedo anche a casa oggi 0024 sì, ma Parma più brutto, cioè il Parma oggi è stato peggiore della sua maglietta, che è già inguardabile, un verde, un orripilante verde evidenziatore, si confondeva col Prato. Dicevo 800 24 0024, voglio sapere quanti saliranno sul carro di Allegri, che fino a settimana scorsa era criticato. Poi arriva anche Pierluigi Pardo, poi parliamo anche del Milan, perché c'è Inzaghi che ieri ha detto datemi tempo fino a dicembre per dare i primi risultati. Avrà ragione. Anche ragione. Intanto fa 17 punti nelle prime 11, come Seedorf, prime 11 del girone di ritorno dell'anno scorso. Seedorf era partito molto bene, poi sappiamo come è andata a finire quella storia, è subentrato a campionato in corso, quindi sono situazioni diverse, il Milan veniva dalla grande depressione precedente, ha avuto all'inizio questa sferzata di energia eccetera, però ha ragione, secondo me ha ragione Inzaghi, ma basta leggere la classifica, lì ha 17 punti la Lazio delle meraviglie che oggi ha perso Empoli, ne ha 19, la Sampdoria ne ha 20, il Napoli vediamo se vince Firenze oppure no, al massimo ne avrà 21, quindi non ha torto. A proposito di rivincite, ieri è tornato il Milan di Inzaghi, quello con Venezia il falso 9, ed è tornato anche il gioco. 800 24 0024, amici da casa che scrivono via sms, cacciate Mazzarri, incredibile, ma solo una squadra derelitta come Mazzarri l'Inter poteva perdere dal Parma. Ma vediamo cosa fa con il Verona, intanto ha giocato bene a Saint-Étienne, perché mettere questa pressione sul Mazzarri e sull'Inter, ma per quale ragione? Ma leggete la classifica, l'Inter ha 15 punti, se vince va a 18, un punto in meno della Lazio di qui sopra, sarebbero al massimo 3 punti in meno del Napoli terzo, ma cosa deve fare l'Inter? Cosa deve fare Mazzarri? Traffico. L'importante è che oggi è una partita al principio difficile, dopo già quando facciamo il secondo già un poco più libero, ma l'importante è che vinciamo la partita, no? Convocati. Pogba con il destro, Mirante, e arriva Llorente. Cerca il solito spazio per il tiro a giro, Tevez, la palla schizza verso Lichtsteiner, calcia lui, Lichtsteiner. Arriva ancora Lichtsteiner a sostegno, spazio per Lichtsteiner che questa volta va all'assist per Llorente, e ancora gol della Juve, doppietta di Llorente. Trattenuta di Costa, evidente su Tevez, si prosegue per il vantaggio perché Tevez è partito, ancora Tevez in campo aperto, salta anche Lucarelli, Tevez, che azione, Tevez, gol incredibile della Pasch, Pogba, altra respinta, così, arriva Tevez, firma anche lui la sua doppietta e sono 5, dentro per Morata, posizione regolare, Morata, con Gobbi e mette il cross per Morata, arriva anche il 7-0 della Juve, la doppietta di Morata. Ti bisognerebbe fare una classifica sulla bellezza dei gol della Juventus, a parte quello di Tevez che sta in cima a tutti, però anche gli altri. Non brutto quello di Lichtsteiner, bellissimi tutti e tre. Bellissimi tutti. Sassata da 20 metri per Lichtsteiner, ma bello anche, molto bello anche il tocco sul primo di Llorente, quello che ha aperto la partita. Gol davvero molto. Ma quello di Tevez, ragazzi, Ors Category, cioè forse il più bello del campionato fin qui. Adesso gli altri non mi ricordo così a memoria, ma questo certamente da copertina. Però a noi interessa il carro di Allegri, e allora lo chiediamo anche a Toni Damascelli. Ciao Toni. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao. Tutti pronti al balzo sul carro di Allegri, che ha scommesso, sta cambiando pelle a questa Juve, fino all'altro ieri era criticato, oggi l'abbiamo visto godersi la rivincita. Godersi la rivincita contro una squadra che aveva già 20 gol al passivo, stasera ne ha 27, 9 sconfitte su 11 partite, parlo del Parma ovviamente, questo non significa ridimensionare la vittoria della Juventus. Salire sul carro di chi vince o di chi incomincia a vincere è un classico italiano, ma non soltanto italiano. Per quanto mi riguarda non riesco a capire perché la Juventus debba cambiare pelle. Forse deve cambiare pelle perché è piena di rughe, forse deve cambiare pelle perché si deve fare più scura oppure più chiara. Forse perché l'ha detto Allegri, l'ha detto anche ieri, hanno bisogno di motivazioni diverse, che non è poi diverso da quello che diceva Conte. Sì, sì, ma io penso che un professionista non ha bisogno di motivazioni da parte di un allenatore. Un professionista di questo livello, parlo di Juventus, parlo di Milan, parlo di Inter o comunque di quello che erano l'Inter e il Milan, perché poi stasera il Milan è già a 11 punti dalla prima, 11 punti dopo 11 giornate, sono tantissimi. Dicevo che quindi cambiare pelle è una buona propaganda. La Juventus ha bisogno soltanto di ritrovare quegli attributi di aggressività, ovviamente agonistica, che aveva smarrito in questa prima fase del torneo, che aveva, che fanno parte storicamente di questa squadra, non soltanto con Conte, ed erano un po' finiti con l'epoca cobolliana e di Jean-Claude Blanc, che nulla avevano a che fare col football. Ora, io ritengo che il risultato di oggi sia importante per chi ha fatto gol di questa squadra, è importante per la doppietta di Llorente, che non va in nazionale, per quella di Morata, che andrà in nazionale, per quella di Tevez, che andrà in nazionale, per Lichtsteiner. Il problema è che Conte non sa cosa farsene di questi gol. Da domani comincia a lavorare e la sua ex squadra ha fatto 7 gol, nemmeno un italiano. Sì, Conte ha pescato ieri sera quello di El Shaarawy, sì, che ha avuto la fortuna di vedere di persona. Lui era presente, tra l'altro, come sapete, Conte è rimasto fino all'ultimo secondo di gioco, a differenza di chi lo ha preceduto, che spesso e volentieri andava allo stadio e poi dopo la fine del primo tempo, i primi 10 minuti se ne andava, è rimasto lì, ha firmato autografi coi bambini, ai bambini, cioè fa il commissario tecnico non di accademia ma di campo, di football. Però ribadisco, avrà molti problemi, Bonucci squalificato, Pirlo fuori, Verratti anche lui acciaccato. È un problema perché la partita con la Croazia è difficilissima. La Croazia è una grande squadra che pochi ancora conoscono, e ha dei giocatori di grande esperienza internazionale, diciamo Modric per parlare di quello più noto che gioca a Madrid, quindi penso che sia una partita delicatissima per il calcio italiano. Lo dico perché oggi il 7-0 della Juventus è un 7-0 tutto straniero e poco italiano. Ben venga però, Tony, a questo punto un esame difficile per la nazionale di Conte, con tutte le difficoltà. Ben venga, ma volevo capire una cosa, cioè secondo te la Juventus, cioè, Allegri sbaglia a cambiare il modulo? No, ma lui è l'allenatore. O secondo te è qualcosa che non conta? No, conta sempre cambiare l'ordine dei fattori, perché il prodotto debba rimanere uguale, no? In aritmetica si dice così. L'importante è pensare che cambiando l'ordine dei fattori rimanga quel prodotto. Io ritengo che ci siano squadre che cambiando l'ordine dei fattori il prodotto invece cambia in maniera decisiva. Guardate appunto il Parma, guardate l'Inter stessa e sotto un certo profilo anche il Milan, che ha provato a cambiare. Il Milan purtroppo si è illuso, Pippo, si è illuso del 5-4 col Parma, di avere tra le mani una nuova squadra, cosa che invece così non è. Sì, gli è bastato rimettere alcuni tasselli a posto, togliere Torres, rimettere Menez dove giocava all'inizio della stagione. Si è visto qualcosa di meglio rispetto a quanto visto a Cagliari, a quanto visto con la Fiorentina, col Palermo, non ne parliamo. Il Milan, Antonio, non è da parametrare secondo me alla Juventus. Però sono già 11 punti, sono tanti. Io ritengo che quando una squadra che deve ricostruirsi ha come punto di riferimento di questo inizio di stagione Menez, ci sono ha un qualche problema. Ho grandi perplessità, non perché Menezes non sia un buon giocatore, ma non può essere lui la chiave per cambiare il registro di questa squadra, così come non lo può essere Honda, che è un buon giocatore, ma siamo a parlare di categorie rispetto al Milan che conoscevamo e che conoscono i dirigenti del Milan. Ora, tornando ai risultati di oggi, io ritengo che il risultato più strano sia quello della Lazio ad Empoli, anche perché la Lazio veramente arriva sempre a Roma e non riesce a vedere il Papa, ogni volta sembra che ci sia e poi ogni volta delude. Sì, cosa che lì dietro rispetto a Juventus e Roma in questo inizio di stagione stanno facendo in molti. Poi ore 18 vediamo il Napoli, che forse è quella che ha la potenzialità per fare uno scatto. Per chiudere, prima di salutarti, seratina non semplice dal punto di vista psicologico per la Roma. Visto questo 7-0, non tanto per la consistenza, però con la certezza sei lì a 6 punti, se sbagli questa sera cambia davvero prospettiva completamente la stagione. Sì, certo, non può sbagliare la partita di stasera. Devo dirti che il Torino in questo momento è una squadra senza una sua identità, e l'identità che Ventura gli aveva dato, è una squadra che avrebbe bisogno di una parola forte da parte del presidente, ma Cairo è impegnato molto sulle fronte televisivo e di comunicazione e poco sul fronte calcistico. Aspetta Tony che ti faccio sentire Donadoni prima di salutarti. C'è Donadoni ai microfoni di Sky. Vabbè. Perché siete usciti dal campo a quel punto? Beh, sono quelle partite che diventa anche abbastanza semplice commentare, perché c'è stata veramente una sensazione di impotenza e non siamo praticamente scesi in campo, troppo, troppo timorosi, troppo impauriti, questa è la cosa che mi fa più rabbia in assoluto, per cui non c'è da commentare più di tanto. Forse pensavo di aver fatto qualcosa di estremamente straordinario sabato scorso contro l'Inter e che questo bastasse, invece questa è la dimostrazione, quindi bisogna archiviarla in fretta e riflettere bene, perché perdere così con questa differenza mi fa anche un po' vergognare onestamente, quindi dobbiamo essere subito bravi a buttare le energie nelle prossime 2 settimane, prepararci bene per la prossima, perché ormai questa è inutile stare a parlarne ancora. Sì, non sempre si gioca contro l'Inter di questo inizio di stagione. Grazie Tony. Ciao Tony. Grazie a voi, ho sentito parlare di vergogna, solitamente chi si vergogna fa un passo indietro. Anche tu dicevi Torino ha bisogno di una parola del presidente. Torino e Parma erano state le grandi sorprese, rivelazioni, quello che vuoi, dell'anno scorso. Anche il Parma avrebbe bisogno di qualcosa, non so se la parola del presidente o di un'altra cosa. Sono totalmente d'accordo, io ritengo che comunque Donadoni dovrebbe lui fare un passo indietro, perché comunque ogni tanto bisogna assumersi delle responsabilità senza dire mi assumo tutte le responsabilità, che non significa nulla, che poi uno deve spiegare quali sono le responsabilità tecniche, tattiche, di preparazione fisica, invece molti si mascherano, si nascondono dietro questa etichetta, questa frase fatta, mi assumo tutte le responsabilità. Benissimo, allora se ti assumi tutte le responsabilità abbandona, dimettiti. Questo non l'ha ancora detto Donadoni, attenzione. Credo non lo dirà. Grazie Tony. No. Non lo dirà. Togliamo credo. Grazie Tony, ciao. Ciao. Grazie a voi, ciao. Buon lavoro, ciao. 800240024 Vanni da Varese, Vanni. Sì, buonasera. Prego. Mi sente? Sì. Volevo fare due domande provocatorie. Uno riguarda Cenza, che l'anno scorso disse che Balotelli era uno dei primi 4 attaccanti europei, se ancora della stessa idea, come faceva a dirlo l'anno scorso, e comunque che l'anno scorso non aveva fatto nulla. La seconda riguarda Mourinho e Ancelotti. Io sono juventino, quindi sono super partes in questo caso. Mourinho mi sembra che sia osannato tanto, soprattutto dai media, ma mi sembra uno molto fortunato. Io ricordo che quando vinse col Porto contro il Manchester, quando iniziò la sua grande carriera, annullarono un gol regolarissimo al Manchester, mentre Ancelotti non ha tutta questa risonanza mediatica e ha vinto più di lui. Non è vero. Che non ha questa risonanza mediatica, un allenatore che è su tutte le prime parti. Poi certo Mourinho è bravo a rubare la scena con l'abilità di comunicare, con l'abilità comunicativa, che è una qualità, sono secondo me due grandissimi allenatori. Sì, comunque Mourinho col Chelsea 17 partite senza sconfitte in questa stagione, è a due partite dal suo migliore inizio di carriera, Real Madrid 2010-2011. No, perché il Chelsea sta viaggiando un po' a fari spenti, soprattutto in Europa, in Premier sta dominando, però attenzione perché non sarà bella appariscente come le altre, ma squadra estremamente mourinhiana. La terza cosa che volevo dire all'ascoltatore, Vanni? C'è una terza cosa, volevo dire, io sono juventino, l'Inter ha vinto quando ha distrutto la Juve, probabilmente le colpe c'erano assolutamente, ma solamente perché ha distrutto la squadra che in quel periodo era la più forte, altrimenti non avrebbe preso Ibrahimovic, non avrebbe venduto Ibrahimovic per avere Eto'o. E poi quando è finito questo piccolo ciclo è ritornata all'Inter di sempre, che sbaglia gli acquisti finché c'era Moratti che metteva 500 milioni all'anno, era un conto, infatti erano 280 di debito. E poi è ritornata la solita Inter, con i tifosi che una volta buttavano i seggiolini in campo, adesso criticano Mazzarri, ma con quei quattro... Magari i seggiolini non volano, almeno ci auguriamo, però se avete voglia di rispondere, noi siamo qui. A proposito... Aspetta, che devo farmi rispondere su Balotelli, perché mi ha chiamato in causa. Allora, Balotelli è un giocatore che a me è sempre piaciuto, secondo me dal punto di vista del talento è un grandissimo giocatore, si sta totalmente perdendo, perché è il momento più difficile della sua carriera, in questo momento è improponibile per la Premier League, è improponibile per il Liverpool, è improponibile probabilmente anche per il campionato italiano, sta buttando nel cesso tutto il suo talento, quindi io continuo a pensare che dal punto di vista del talento sia un grande giocatore. Sì, il 17 resto, partite, 2 gol. Niente, Giovanni, niente. Nemmeno utilissimi. Niente. Mi fai convocare Mazzarriani e anti-Mazzarriani? Io voglio la testa di Mazzarri calcisticamente parlando. Niente di meno. Mazzarri, io non so come vedete voi, è un incompetente. L'Inter gioca come gioca il Cagliari di Cera e di Riva. Buttatelo fuori, non se ne può più con questo mentecatto incompetente. Tutti dobbiamo concorrere a far sì anche che, se ci dovessero essere qualche momento difficile, si possa anche aiutare questa squadra, se si capisce che almeno come intenti cerchiamo di dare il massimo. Questo è un pochino che rientro in linea con quello che ha detto il Presidente, volevo fare questa aggiunta perché a volte, come abbiamo visto a Saint-Étienne, siamo partiti bene e il secondo tempo un pochino le forze ci sono mancate. E in quel momento lì spero anche che dovesse esserci, che la nostra gente ci dia una mano. Io vorrei che chiamassero per raccontarci che cosa faranno questa sera, ore 20:43. Ma cosa che facciano? Lo speaker prima o poi dovrà dire il nome di Mazzarri. 800 24 00 24. Ci fermiamo, sì. Si ricomincia. Tutti convocati. Allora, ci sono Federico da Padova, Alessio da Fermo, intanto c'è anche la formazione ufficiale di Fiorentina e Napoli, tutto come da pronostico della vigilia nella Fiorentina, quindi davanti Ilicic e Cuadrado con Babacar prima punta, mentre nel Napoli c'è un cambio rispetto alla formazione che oggi pubblicavano i giornali. A metà campo gioca Jorginho al posto di Inler insieme a David Lopez. Federico. Pronto? Prego. Buonasera, grazie per la convocazione. Io telefono per parlare di Mazzarri e volevo dare una motivazione di quello che secondo me è il motivo per cui il tifoso interista Mazzarri non riesce a vedere. Uno, è un allenatore dozzinale, nel senso buono del termine, è un allenatore da metà classifica. La sua fortuna, cioè lui, il suo gioco era difesa e ripartenza. Quando era a Napoli ha avuto la fortuna di avere Cavani e gli altri due attaccanti, Amsic eccetera, che hanno fatto un sacco di gol. Quindi è solo fortunato, è solo un uomo fortunato. Quindi Ancelotti è un uomo fortunato perché ha allenato il Milan di Rui Costa, per arrivare terzo, secondo, per fare stagione a Mazzarri, poi sentiamo anche l'altra motivazione. Prego, Federico. E l'altra è che non ha nessuna capacità empatica, difatti è assurdo, cioè noi dell'Inter fino a 2 anni fa avevamo un direttore, cioè avevamo Branca, che come capacità empatica aveva 0, e magari avevamo degli allenatori che davanti alle telecamere sapevano parlare. Quest'anno al contrario abbiamo Mazzarri, che come capacità empatica siamo a 0, invece magari c'è Ausilio che qualche volta si fa vedere. E poi volevo farvi una domanda che è un po' la mia speranza. Volevo sapere se secondo voi c'è la possibilità che a fine anno, visto che Tohir non mi sembra uno sprovveduto, uno stupido, e riesca a trovare un accordo per fare in modo di liquidare Mazzarri. Ma è molto probabile, considerato che Mazzarri non può certo restare due stagioni con queste condizioni ambientali intorno. Come fai a sapere dove arriva Mazzarri? Però a me sembra autolesionismo, carissimo Federico. No. Poi non piace davanti alle telecamere, e va bene, non piace davanti alle telecamere. Vorrei sapere più del quinto posto cosa doveva fare l'anno scorso Mazzarri. E poi quest'anno vediamo dove arriva, no? Cioè, perché al di là di tutte le contestazioni, siamo già a guardare l'anno prossimo, vuol dire che quest'anno non combina niente. Vediamo. Vediamo. Alessio, intanto oggi se vince va un punto sopra Inzaghi. Alessio. Va un punto sopra Inzaghi, ma va anche da altre parti. No, però Inzaghi ha chiesto fino a dicembre, tutti gli danno fino a dicembre. Va un punto sotto la Lazio, che non è uno squadrone. Alessio. Sì, buonasera. Prego. Io volevo rispondere per prima cosa al tifoso juventino che prima diceva. Aspetta che ti faccio sentire Benitez pochi minuti prima di Fiorentina-Napoli. Aspetta, Benitez. È un brutto inizio. No, veramente oggi dobbiamo pensare in positivo. Credo che la squadra sta giocando bene, ha fatto tanti risultati. L'unica cosa che dobbiamo fare oggi è pensare il futuro, pensare a una partita difficilissima e provare a fare lo stesso che abbiamo fatto in queste partite. Lei ha detto alla fine di questo miniciclo di 7 partite capiremo, no, qual è la reale dimensione del Napoli. Allora le chiedo in questo senso quanto è fondamentale la partita contro la Fiorentina. Sì, è fondamentale dal punto di vista anche della fiducia. Se vinciamo qui siamo più vicino al terzo posto, si vincono loro, saranno più vicini, saranno tutti quasi insieme e sarà sempre una lotta fino alla fine, ma abbiamo fiducia e proviamo. Sì, partita da 6 punti, quella del Napoli. Alessio, prego. Sì, io volevo rispondere per primo al tifoso juventino che prima diceva che l'Inter aveva vinto solo dopo aver distrutto la Juventus, che è una cosa fuori dal mondo, visto che abbiamo vinto la Champions dopo 4 anni della loro discesa in Serie B e che non c'era nessun ex giocatore juventino titolare nella finale, diciamo, di Madrid. E poi voglio dire, la Juventus in Europa non ha mai vinto nulla, per cui voglio dire loro che cosa ci vogliono riproverare. Mai vinto nulla, qualcosina ha vinto anche la Juventus. In Europa pochissimo, perché la prima Coppa Campioni, voglio dire, è inutile menzionarla. La seconda, l'Ajax ancora rivendica le situazioni. È tutto meraviglioso. A 20 minuti da Fiorentina-Napoli con una serata ancora che ci aspetta. Grazie comunque, parliamo di Milan. Sono molto contento, mi dispiace per i giocatori, avrebbero meritato i 3 punti e torniamo a casa con un solo punto, però sicuramente rimane la prestazione, la voglia. I ragazzi sono stati molto bravi e insomma abbiamo ritrovato il nostro spirito che era mancato solo col Palermo dopo il 2-0, perché prima avevamo fatto una buona gara anche lì. Sì, ma sono molto contento delle sue parole, ha detto delle cose giuste che mi fanno molto, molto piacere. Per il gol sono molto contento, era da tanto che non arrivavo e per un attaccante è sicuramente importante segnare, però avrei preferito anche una vittoria questa sera. Insomma, queste sono le due volte del Milan, Inzaghi e il Sharawi. Saluto Filippo Galli, ciao Filippo. Ciao, buonasera a tutti. Ha chiesto fino a dicembre. Noi l'abbiamo Pinocchio detto e Sharawi. Prima non ci provocatoriamente credo, non ci cosa credo, non ci credi? Che avrebbe preferito la vittoria. Secondo me quel gol lì è stato, dopo così tanto tempo, dai, val bene un paio di punti. Filippo. Sì. No, vabbè, è stato un gol. Ha detto una mezza bugia, dai Pinocchietto. Ma no, vai, sai, voglio dire, poi bisogna sempre stare attenti, no? Voi, come si dice, qualcosa appena fuori dalle righe ne fate subito i titoli, e quindi giustamente certo. Stefano ha detto che avrebbe preferito una vittoria, però è normale, era tantissimo che non segnava, lo si è visto come ha espresso tutta la sua gioia. Poi ha fatto un gesto tecnico bellissimo, insomma, come lui ci ha mostrato ormai appunto tempo fa come quella può essere un po' la sua mattonella, no? La capacità di andare a colpire il palo lontano fuori dalla porta del portiere, insomma ha dimostrato di avere quella voglia e quindi di mettersi in gioco e di essere un giocatore trascinante per il Milan, anche considerando la giovane età, insomma 22 anni. Ma è pienamente recuperato? Beh, guarda, io credo che sia importante poi dare continuità, no? Alle prestazioni, ovviamente anche ai gol. Spesso insomma si dà addosso a un giocatore quando sbaglia delle prestazioni e lo si esalta quando ne fa gol, fa qualcosa di positivo. Io credo che l'equilibrio sia importante per Steven, per Stefan e per tutti i giocatori in generale, soprattutto per i più giovani, ecco, l'equilibrio di chi gli sta attorno e l'equilibrio personale. Io credo che insomma la chiave di lettura debba essere questa. Sì, non era stato semplice quel periodo dopo quel meraviglioso girone d'andata, 16 gol se non sbaglio. Ha risposto a Conte, no? Ha detto deve capire cosa vuol fare da grande, ci avrà le potenzialità per essere un grande giocatore, come quello di cui parlavo prima, ma lasciamo stare. Sì, quello che oggi è a Liverpool. Sì. A proposito di Milan, noi prima abbiamo sintetizzato in maniera un po' cattiva, un po' maliziosa, è tornato il Milan di Inzaghi, quello con Menez davanti a fare il falso 9, ed è tornato anche il gioco, perché mi sembra che ieri sia stato un bel Milan, Filippo. Ma sì, un Milan, diciamo che quando perdi 3 punti in casa, poi l'ideale è sempre quello di andare a prendere i 3 punti e riprenderseli fuori casa. Però la cosa importante, come ha sottolineato il mister Inzaghi, è che ha ritrovato il suo Milan, ha trovato una squadra con spirito, che ha voluto fare la partita, che si è messa in gioco, ha saputo difendere con organizzazione, ripartire e fare male questa Sampdoria, che insomma non dimentichiamo è lì davanti questa Sampdoria, non abbiamo giocato contro un avversario qualsiasi né in un ambiente, in un campo facile, quindi credo che giustamente, come ha detto mister Inzaghi, sia da vedere il bicchiere mezzo pieno, insomma. Sì, ha chiesto fino a dicembre, non siamo tutti d'accordo sul fatto che sia un tempo giusto per un allenatore del Milan, però diciamo c'è da discutere, se ne può parlare. Filippo, ti chiedo ancora un minuto di pazienza, abbiamo il traffico, poi ti riprendiamo, traffico. Squinzi, caccia via sti filippini da radio. Convocati. Sì, abbiamo 2 settimane la squadra per preparare bene la partita, cerchiamo di arrivare lì belli convinti e positivi. Sì, vi do anche l'aggiornamento del Gran Premio, 32 giri, Rosberg in testa su Hamilton che ha fatto anche un lungo, evidentemente soffre anche lui un po' di pressione come la Roma di Garcia di questa sera, e poi c'è Raikkonen ma ha una sosta in meno nel caos dei pit stop, Alonso sempre perso tra la 6ª e l'8ª posizione, Vettel sta rimontando, gara però che sta andando via un po' come tutta questa stagione con il dominio Mercedes. Siamo con Filippo Galli. Torres, Filippo, è un problema o no? Tu direi no, immagino. Ma io credo che Torres insomma si debba dare ancora un po' di tempo. Chiaro che qui tempo ce n'è poco, e soprattutto nel nostro campionato se ne vuole dar poco, però io credo che il ragazzo stia dando da fare, stia cercando di essere il punto di riferimento lì davanti, a volte ci riesce, a volte no, però non mi sembra che stia facendo delle prestazioni particolarmente negative. È chiaro che si aspettano i gol subito, ecco, in questo momento evidentemente non riesce a dare questo apporto, ma io credo che lui invece possa essere utile a questa squadra per il modo in cui questa squadra gioca, e non solo con il falso 9, quindi, ma con un 9 vero. Però Fede, un attaccante lo valuti dai gol, cioè l'unità di misura di un attaccante è quello. Vabbè, è quello, ma quello come le squadre, noi abbiamo questa malattia in Italia, le squadre, è chiaro, vabbè, io parlo sempre da responsabile stagionale, però certo. È normale che nelle prime squadre devi valutare soltanto il risultato, è vero, però noi abbiamo questa abitudine, secondo me sbagliata, sempre di vedere tutto solo attraverso il risultato, tutto insomma, io il gol, certo il gol, però magari se li fa fare ben venga anche un movimento piuttosto che una sponda, piuttosto che il lavoro sporco. Io credo che vada valutato invece un giocatore in toto, sì. Quindi insomma secondo me l'apporto di Torres non è poi così negativo come viene dipinto, vogliamo quello di Decisio, secondo me, anche, ecco, se vogliamo parlare di un altro giocatore che secondo me, forse, non so, ci si aspetta chissà che cosa da Mattia. E bene, è un grande giocatore del signor Phil. Stia facendo le sue partite senza eccellere, ma sta facendo le sue partite. Sicuro, ma Dicelio è un patrimonio del Milan, è uno dei pochi giocatori che possono avere un mercato, insomma, si sta giocando male, però Dicelio, su Dicelio non abbiamo grandi dubbi. Te lo vendo subito. No, ma io guarda che sto difendendo Inzaghi, secondo me ha ragione Inzaghi a chiedere tempo fino a Natale. Cioè, qual è il problema? Dov'è il problema? 17 punti, va bene. No, è a 3 dal terzo posto della Sampdoria, cioè dov'è il problema? È una cosa giusta, bisogna cercare di non perdere contatto dal terzo posto, insomma, da quello che ci permetterà di andare in Champions League, insomma. Sì, vi permetterà di andare in Champions League. C'è un certo ottimismo, Filippo. Vabbè, sì, forse è un lapsus freudiano. Ma è giusto. Ma fai bene, Filippo. Sì. Fai bene. È così, è chiaro che poi, insomma, lo sappiamo tutti qual è la realtà. Ci sono squadre sorprezzate, vabbè, Juve e Roma su tutte, poi c'è il Napoli che adesso si sta riprendendo, vediamo cosa farà stasera. Tra l'altro, perché la Lazio fino a ieri si decantava la Lazio, oggi ha perso, insomma, equilibrio. Io chiedo equilibrio, poi vediamo, insomma. Chiede anche Filippo fino a Natale, ma noi ti risentiamo prima, Ciao Filippo. Ciao Filippo, un abbraccio. Ciao Filippo. Noi abbiamo il calcio è materia liquida, come dice Pardo, che dopo arriva. Sì, però la classifica è liquidissima. I numeri sono numeri. Inzaghi 17 punti in 11 giornate, Seedorf 17 punti nelle prime 11 giornate, ed era già un allenatore ai margini del progetto Milan. Sai perfettamente che è un'altra storia. Gabriele da Roma. Gabriele. Buonasera. La differenza è che Seedorf aveva spaccato tutto. Sì. Aspetta un attimo, Gabriele. La differenza è che Seedorf aveva spaccato tutto. Aveva spaccato la squadra, lo spogliatoio e anche i maroni di qualcuno. Inzaghi invece a me sembra che l'atteggiamento di Inzaghi sia totalmente diverso, e anche quello della squadra. Vedo grande compattezza nel Milan, quella che l'Inter non ha. Gabriele. Pronto, buonasera. Eccoci. Buonasera. No, ecco, volevo dire due cose. La prima è che se voi magari avete una certa, diciamo, come si dice, risonanza, volevo dirvi che il calcio moderno, penso dal punto di vista di tutti i tifosi, non è assolutamente bello, ma questa è una parentesi aperta e chiusa, nel senso così in generale. Va bene. Distrugge il calcio. No, ho chiamato per parlare dell'Inter. Io sono interista, naturalmente posso anche essere preso di parte, perché giustamente i tifosi ragionano più di pancia che con la testa, però io vedo l'Inter, per esempio con la Fiorentina è finita 3-0, io non mi arrabbio per i gol presi, perché sono tre gol bellissimi di tre giocatori che due hanno tirato dalla distanza, uno vabbè si è smarcato tutti, e il fatto mio è che sul 2-0 l'Inter giocava come sull'1-0, cioè è sullo 0-0, non c'è reazione, non c'è una reazione rabbiosa che deve essere secondo me sempre dell'Inter. Io questo non penso che dipenda dai giocatori in senso stretto, perché i giocatori sì, magari uno dice non sono quelli del triplete, non lo mette in dubbio nessuno, ma che non ci abbia una reazione è una magari cosa dipende molto... dalle condizioni atletiche. Era la settima partita del famoso ciclo di 7, come quella di stasera tra l'altro contro il Verona, e secondo me qualche alibi di infortuni a Mazzarri può anche essere concesso, però no, gli interisti sono duri e puri. Abbiamo anche avuto quelli che hanno chiamato per lamentarsi dei rigori dati all'Inter. Sì, rigore. Abbiamo vinto due partite, ma 1-0 su rigore. E beh, allora, che vuoi fare? Andrea da San Marino. Andrea. Pronto, buonasera. Prego. Io volevo parlare della lotta salvezza, che più o meno l'Inter. Siamo qui. Siamo lì, insomma. Senta, io volevo una volta. L'Inter è lì con la lotta salvezza, va bene. Io sono un doppiocertista, sono tifoso dell'Inter e del Cesena, che abito a pochi chilometri. Volevo chiedervi la vostra considerazione proprio sul Cesena. A Cesena c'è qualcuno che critica Bisoli, che in 5 anni ha fatto 3 promozioni e una salvezza miracolosa, con una squadra che purtroppo anche oggi mancavano 9 giocatori. Volevo chiedervi, secondo voi, se è una squadra che è già spazzata oppure si può salvare? Io credo che recuperati i calciatori infortunati può salvarci. Volevo sapere cosa ne pensate voi, visto che siete, certo, secondo me, dei grandi esperti. Che può serenamente salvarsi. Può serenamente salvarsi. Vanno giù in 3, secondo me, in questo momento non c'è il destino di nessuno battezzato, anche se aveva il Parma, la maglia del Palermo Cesena per oggi, perché? Si sta inguaiando parecchio. Sì, oggi diverse maglie rivedibili, compresa quella del Parma, l'abbiamo detto, Arlecchino. Anche quella della Juventus, la Lazio, che ha giocato con la maglia del Granata, Toro. La maglia del Toro. E ha perso. Adesso arriva anche Pierluigi Luigi Pardo, 800 24 0024. Vi raccontiamo in diretta Fiorentina-Napoli il Gran Premio, Rosberg, Hamilton, Massa, Button. Siamo al giro numero 39 di 71, Alonso ottavo, andando avanti così ci aspetta un grandissimo finale ad Abu Dhabi, dove tra l'altro i punti saranno doppi. 800 24 0024, Bet Corner, e poi ci risentiamo con Pier. Quote e pronostici. Sono due le gare che chiudono l'undicesimo turno di Serie A questa sera. Dopo Fiorentina-Napoli, che è il match delle 18, si giocano due posticipi di lusso. Vediamo dunque le quote sniper. Queste gare alle 20.45 in campo Inter-Hellas Verona. L'1 è quotato 1.52, l'X è a 4, il 2 invece è quotato 6.50, quota del gol a 1.75, no gol a 1.95. Sempre alle 20.45, questa volta però all'Olimpico di Roma, c'è Roma-Torino, 1 quotato 1.45, X a 4.25, 2 invece quotato 7.50, interessante la quota dell'under quotata 1.95, mentre l'over 2.5 è quotato 1.78. In Spagna invece scende in campo questa sera la Liga con alle 19 Valencia Atletico Bilbao, 1 quotato 1.63, X a 3.75, 2 invece quotato 5.50. Sempre per la Liga alle 21 c'è Real Sociedad contro Atletico Madrid, l'1 è quotato 4.50, l'X è a 3.50, il 2 invece è quotato 1.80. Questa era l'ultima delle quote snai di oggi, noi ci risentiamo domani. Ragazzi, ci sono tra poco, tutti convocati weekend, 800 24 0024, se becchiamo fra poco, convocati. Pallone ancora per Carlito Tevez, che è pronto al traversone, eccolo che arriva insidioso, Yang Gambiwa, poi al volo Leonardo Bonucci, 3-2. È un mondo difficile. Rafinha che va al tiro, sfugge il pallone a De Santis, attenzione alla forte vuota, sono 7. È un mondo difficile. Sono 7. È vita intensa. Nicola da terra, riesce a giocare. Poi arriva Hiller. L'apertura per Higuain. Attacca lo spazio. Caicon. Palla dentro per lui. Caicon. Rete. Caicon fa impazzire il San Paolo. È un mondo difficile. Attenzione Alaba. In mezzo Lewandowski. Lo va a cercare all'indietro. Ribéry. Rete. Ribéry. Felicità, momenti. È futuro incerto. Non è una partita o due che cambiano le mie convinzioni. Io sono convinto che i ragazzi sono motivati e siamo tutti carichi e pensiamo noi positivamente per il resto della stagione, non solo per la gara di domani. Sappiamo sarà difficile, ma faremo di tutto per vincerla. Felicità, momenti. Sì, anche Benitez, l'abbiamo sentito prima, era convintissimo che il Napoli potesse vincere a Firenze. 10 minuti 0-0, però Napoli che già un paio di volte ha bussato alla porta della Fiorentina, come ha bussato Pierluigi Pardo. Eccoci, volevo sapere se eri carico anche tu. Caricchi, che beh, non carico. C'è allenatore nella storia del calcio che dica in conferenza stampa prepartita non siamo carichi, pensiamo di perdere. Quindi questo vale sia per Benitez che per Garcia. Beh, Benitez ci ha provato quest'estate, ha detto ma se anche non passiamo. Sì, non è quella diversa, quella è una visione quasi filosofica, esistenzialista della vita, e ci è tornato qualche giorno fa, questa cosa gli è rimasta impressa perché evidentemente a Napoli lì per lì non gliel'avevano perdonata e non era sembrato un modo per caricare la squadra, anche se poi in realtà la squadra se ne frega, no, di tutte le, secondo me, delle parole della conferenza stampa. Cioè delle volte ci sono i famosi mind games, come dice il dottor mind Genta, games, fra allenatori, molto, però games. Insomma, poi la realtà è un'altra. Ricordiamo il nostro numero di telefono 800 24 0024. Sono convocati i romanisti da questo momento, perché ci devono ci devono raccontare questa vigilia, i torinisti, anche i napoletani, se hanno voglia. Noi vogliamo, vogliamo tutti, poi qua noi c'è vogliamo, libertà. Poi noi vogliamo quelli che andranno a fischiare Mazzarri, e ci devono raccontare come lo fischieranno, perché anzi magari ci fanno anche il fischio in diretta, se vogliono. 800 24 0024. A proposito anche di mind games, io la farò delle cronache, però sono curioso di ma fischi che fischi me lo frega di meno, insomma, con tutto rispetto. A proposito di Mind Games, c'è Hamilton a 4 decimi di secondo dietro a Rosberg. Se lo prende è quasi finito il mondiale. A proposito ancora, di Mind Games, sì, corrono ancora le macchine. Ne hanno anche un'altra. Ma questa dopo, storia è bella questa idea. Meravigliosa. L'ultimo Gran Premio vale doppio, quindi la 38esima giornata vale 6 punti a vittoria. Sarebbe bello, ma che sarebbe bello? Una boiata pazzesca, diciamocelo. Fa un po' giochi senza frontiere. Su, c'è il Fil Rouge. 800 24 0024, seratina non semplicissima per Pardo a San Siro, perché sarà complicato coprire i rumori. No, secondo te lo speaker lo dice o no il nome di Mazzarri? Questa è la domanda della vigilia. Chiamiamolo speaker. L'Inter non ha fatto male a Saint-Étienne, ha fatto bene. No, ma non mi interessa. Però, però non cambia la sostanza. Secondo me, allenatore, signor Mazzarri, decideranno, avranno già deciso. Secondo me non lo dice. L'ultima volta non l'ha detto, vero? No, quindi, l'ultima volta l'ha detto prima, così. Allenatore Mazzarri. Solo che questa volta li aspettano prima, tutti hanno capito il giochino. Secondo me sarà un po' più semplice perderlo. Però via. Posso dire adesso sinceramente, solidarietà a questo mutualista Mazzarri, nel senso che poi sinceramente l'abbiamo detto mille volte, il bilancio non è così catastrofico, l'empatia col popolo nerazzurro è poca, questo sicuramente, però il bilancio non è così drammatico. E soprattutto se i tifosi dell'Inter dicono, e ne ho sentiti tanti, che l'anno scorso la squadra è stata penalizzata, beh, allora è stato penalizzato anche Mazzarri, e la stagione scorsa, comunque soddisfacente con il ritorno in Europa, deve essere stata vista come con qualcosa in più, che invece a Mazzarri non viene mai dato. Quindi una classifica liquidissima, liquida, perché il calcio è materia liquida. Dietro ci sono 7 squadre in 5 punti. Perché è materia liquida, vedi? De Luca, intenzione della partita: 13 minuti e 10. Attacca la Fiorentina, De Luca. Ma adesso c'è un intervento falloso. Questo qui è De Luca, telecronista fazioso del Napoli. Fallo di Gulam, che ha condannato. Partita intensa. Traffico. Poi mi fate parlare della Roma, però. Traffico. Capuano, Pardo e Genta, vi state inabissando in considerazioni a dir poco grottesche. Dai. Convocati. 392 millesimi Rosberg su Hamilton, 16 minuti 0-0 Fiorentina Napoli. Paolo De Paola, direttore del Corriere dello Sport. Ciao direttore. Ciao, buonasera. Seratina non semplice quella della Roma, anche dal punto di vista psicologico, prima di addentrarci nel capire se questo Torino può essere o no un ostacolo. Beh sì, è un momento delicato per la Roma, che deve, come dire, affrontare, dare una risposta alla Juve che è stata molto forte per quanto riguarda la giornata. Il 7-0 è perentorio, con un attacco in cui ci sono tutti gli attaccanti che sono andati in gol, addirittura con delle doppiette. Alla Roma potrebbe bastare semplicemente la vittoria per, come dire, ritrovare un po' di ossigeno e un po' di condizione psicologica tranquillizzante per quello che è l'obiettivo principale, ribadito ulteriormente da Garcia, che è quello dello scudetto. Sì, è forse per la prima volta un po' in difficoltà Garcia, cioè vengono discusse alcune scelte, anche la gestione psicologica di questa trasferta a Monaco, il fatto che prima invece avesse raccontato di una Roma assolutamente stracompetitiva. Lui ieri ha dovuto dire: beh, io non ho parlato al vento se ho parlato di scudetto. È forse la prima volta che succede? Eh sì, è un pochettino il limite del calcio italiano, non è il limite della Roma soltanto, è probabilmente un limite. Io ho visto la partita proprio a Monaco, devo dire un limite anche di preparazione proprio fra le nostre squadre e quelle europee di grandissimo livello. Il Bayern è una macchina da guerra, ma non tanto sulla fisicità quanto sulla preparazione. Non sono tutti altissimi, ma sono tutti bravissimi da un punto di vista tecnico e tutti preparatissimi. C'è stato un momento della partita che per me è stato fondamentale, quando al 27esimo Florenzi ha avuto un infortunio. Io ho visto 6 o 7 giocatori della Roma andare a chiedere la borraccia per bere dell'acqua. Da parte del Bayern non c'è stato un giocatore che ha bevuto. Quindi insomma sono piccoli segnali, piccoli particolari che ti danno la dimensione evidentemente di un ripensamento proprio della preparazione per quello che è il nostro paese, il nostro campionato. Intanto Babacar ha sporcato l'incrocio dei pali, dalla distanza. Pure c'è un allenatore che arriva da un'altra parte, non è un allenatore italiano, no? Prego? No, dicevo, c'è un allenatore, tu dici calcio italiano ha limiti di preparazione eccetera, però la Roma ha un allenatore straniero. Sì, è un allenatore straniero, però chiaramente poi bisogna vedere un pochettino la preparazione che sviluppa. So che ci sono stati per esempio un pochettino di polemiche attorno ai tanti infortuni che ha avuto la Roma e al lavoro che si fa in palestra, che forse è un pochettino troppo pesante. Ci sono altre squadre, adesso stiamo vedendo Napoli-Fiorentina per esempio, la Fiorentina che non fa riferimento al lavoro in palestra e lavora molto sull'elasticità. Secondo me quello che ritenevamo un campo di nostra competenza, appunto quello della preparazione, deve essere un po' rivisto. Parliamoci chiaro, in Europa corrono più di noi. Poi noi possiamo metterci, diciamo, una maggiore sagacia da un punto di vista organizzativo, siamo assolutamente, come dire, ossessionati dalle strategie di gioco e sicuramente possiamo dare lezioni in questo campo, però se i giocatori non corrono per 90 minuti, ribadisco per 90 minuti, c'è poco da affidarsi alle strategie. No, questo senz'altro. Come sono gli umori in città, tu che hai continuamente il polso, insomma, i feedback, come dicono quelli bravi, della città, dei lettori? Perché appunto giustamente Giovanni sottolineava i primi scricchiolii nei confronti di Garcia. C'è anche questo tema Totti destro in questo momento? Nel grande raccordo anulare se ne parla? Ma insomma, l'ultima prestazione di destro non è stata assolutamente certo. Non è stata da io ho visto un Benatia che gli girava attorno quando voleva, insomma, anche lo stesso giocatore un pochettino più di umiltà dovrebbe averla, secondo me, cioè non può presentare un caso quando non gioca oppure quando è utilizzato poco. Da parte del capitano invece non vedo assolutamente né polemiche né niente, anzi è una persona che sicuramente è il leader indiscusso, che riesce a dare sempre una grande mano nei momenti decisivi. In questo momento sicuramente è una fase delicata, c'è stato un calo, c'è stato, come dire, un uppercut molto molto pesante che evidentemente ancora non è stato smaltito, però ribadisco, insomma, il tema è: la Roma è ancora, vediamo stasera come andrà, in corsa per il campionato e paradossalmente, anche se è strano, ma è ancora in corsa persino per la Champions. No, sì. No, ma questo è indiscutibile, e anzi nel girone per ora la notizia non è un'eventuale crisi della Roma, ma è il fatto che la Roma è avanti al City e lo è comodamente, potrebbe vincendo a Mosca addirittura chiudere con un turno anticipo, quindi da questo punto di vista non ci sono dubbi. No, io sono stato a Roma qualche giorno, ho parlato con insomma un po' di persone dentro la Roma, credo che veramente il contraccolpo psicologico dei 7 schiaffi ha fatto sì che sia stato un incubo, questi 15 giorni siano stati un incubo. Sono stati un incubo per un semplice motivo, che ci sono, evidentemente si è preso atto, e quindi il mercato di gennaio si tornerà con un mercato di riparazione vero, si è preso atto che probabilmente qualche giocatore non è proprio all'altezza, certo, della rosa. Cioè il call su Robben, soprattutto nella partita del 7-1, è stata sicuramente la chiave negativa, quindi al di là della preparazione, al di là degli schemi, al di là di tutto, delle scelte dello stesso allenatore, ci sono delle differenze che probabilmente attengono all'età o probabilmente ad altri motivi, ma insomma quello è stato sicuramente, e c'è un problema di fascia sinistra per la Roma, insomma c'è un problema in difesa che deve essere risolto. Sì, poi se li recuperasse tutti, anche dal punto di vista fisico, sarebbe certamente questa la prima bella notizia, quella più immediata per Garcia. E poi manca tanto Castan, ragazzi, perché poi alla fine ogni anno vicino a Castan è sbocciato un grande difensore, sarà un caso, però insomma lui è stato... Io sono ancora qua accanto a Vasco. Non dimentichiamoci di Strootman, che stasera dovrebbe rientrare, beh, quello è un peso specifico enorme a centrocampo. Grazie direttore. Ciao, grazie a voi. Grazie a Paolo De Paola, direttore del Corriere dello Sport. Si è fatto male Insigne, che si è fatto male Insigne, sta uscendo fuori braccia, quindi il Napoli perde Insigne. 22-38 sul cronometro, 0-0 tra Fiorentina, equilibrio assoluto, equilibrio assoluto. Si è vista anche la Fiorentina, l'abbiamo detto prima, sì. Conclusione da lontano di Babacar e palla che ha pizzicato l'incrocio dei pali. Questa sera Roma-Torino, arbitra Banti, che è lo stesso di Torino-Roma di un anno fa, è lo stesso del rigore negato a Pjanic, c'è lo stesso della cena dopo la partita nello stesso locale dei giocatori del Torino. Pierpaolo mi guarda così, io sì, lo dico perché magari guardo... domani questo è tema di discussione. Quella partita l'ho fatta, l'ho commentata e sicuramente su quella partita c'era un dubbio sia sul rigore non dato a Pjanic. Il rigore di Pjanic c'era e, ma anche sul gol del Torino, però insomma adesso è la storia di un anno fa, insomma il gol del Torino ricorderete una spinta a Benatia che andò giù, insomma in quei casi solitamente il difensore viene protetto, però adesso farla Moviola un anno di distanza mi sembra eccessivo. Intanto Rocchi è passato da Fiumicino. Sì. Mortacci tu. Donato da Milano. Donato. Salve ragazzi. Prego. Dunque, io volevo riflettere sulla situazione dell'Inter. Ho sentito prima Pardo che diceva che poi non era così drammatica la situazione di Mazzarri. Ha ragione. Però Pardo, permettimi. Ma tu ti immagini se lui non avesse peccato quei due rigori in quelle due partite? No, c'entra perché stava giocando malissimo e sta giocando malissimo Mazzarri. Con la Sampdoria stava giocando malissimo. Cioè, la Sampdoria è in questo momento la terza squadra in classifica. Io sinceramente con la Sampdoria la grande partita non l'ho vista. Soprattutto il secondo tempo io ho visto la Samp benissimo. Detto questo, anche io. Prego, facciamo finire. Se per questo l'hanno fischiato dopo il primo tempo. Ma appunto, invece... ma lo fischiano a prescindere, voglio dire. Esatto. L'Inter secondo me quest'anno non aveva cominciato male. Comunque, prego Donato. No, hai ragione Pardo, l'Inter non ha cominciato male, anche se veniva l'anno scorso da un anno, come dicevano anche gli altri amici interisti, che effettivamente non hanno... nostro sacrificato, mettiamola così, però indubbiamente quest'anno non sta regalando niente a noi interisti, non solo, io credo che ti faccio questa domanda, se stasera Mazzarri dovesse non battere il Verona, che cosa succede? Secondo me non succede niente, perché la mia sensazione la mia sensazione è che peccato. No, io non lo so, adesso non lo so, non sono un esperto. Donato ha detto peccato. Siamo tifo contro. No, ma lo so. Ma questo succede spesso quando c'è contro l'Inter. Beh, non è la prima volta, non c'è solo l'Inter, ci sono quelle situazioni in cui un allenatore non viene amato e addirittura il tifoso vuole una scossa mentre intanto il Napoli va vicinissimo all'1-0. Parla col clamorosa Higuain. Con la discesa di Higuain incredibile che ha fatto sobbalzare De Luca, gli ha fatto perdere completamente il controllo della console. Higuain in mezzo a quattro giocatori della Fiorentina, dalla fine in fondo, ha superato Gonzalo Rodriguez, ha saltato Neto, però ha allargato troppo. Come hai visto quello di Tevez? Sì, Tevez ha fatto una roba clamorosa, giocatore alla Ronaldo. No, comunque, scusa, tornando all'Inter, io credo che non credo che succederebbero cose clamorose. Non penso che stasera se la porti da casa contro il Verona. Fra l'altro ci sono dei tabù storici, il Verona non ha mai vinto in casa dell'Inter, Mandorlini non ha mai battuto l'Inter, grande ex, cioè. E... la sta tirando a Mazzarri. No, non ti assumi la responsabilità delle statistiche. Le statistiche ci sono, quando i numeri sono clamorosi, sono clamorosi. E poi voglio dire, pure l'anno scorso il Verona non aveva mai vinto in 49 precedenti a San Siro e ha perso, quindi magari perde pure quest'anno. Non lo so. Facciamo Andrea da Genova. Vai, Andrea. Vai. Pronto? Ciao ragazzi. Devi abbassare la radio, Andrea, prego. Sì, abbasso la radio. Sampo Genova. E io da Campo Genova, però volevo far presente che si parla poco delle genovesi. Io anche ammiro anche la Sampdoria perché ieri ha fatto una grande partita sia a Milano, quindi terza in classifica meritato, e anche il Genoa al suo quarto posto non è demeritato. Volevo far presente di parlare anche un po' di queste due squadre qua, che sono... lo facciamo spesso. Settimana scorsa l'abbiamo fatto, no, io lo dico, forse sono troppo onesto, dovrei essere più ipocrita. Quando ci sono dei programmi nazionali che quindi si rivolgono alla totalità dei tifosi, è abbastanza normale che si parli soprattutto delle cinque squadre che hanno più tifosi, le tre del nord, il Napoli e subito dopo la Roma. Questo discorso, insomma, gli ascolti delle partite su Sky e su Mediaset sono pubblici, gli ascolti televisivi sono pubblici, gli ascolti ma non è cattiveria nei confronti delle altre, certamente. Io penso adesso, oggi la Lazio ha perso, ma della Lazio sicuramente nelle ultime giornate si è parlato poco in relazione alle cose eccezionali che ha fatto. Delle genovesi in generale se ne parla poco, oppure se ne parla la settimana scorsa come curiosità, quasi come fossero l'altra faccia della luna di una Milano sofferente, no? Quanti pezzi abbiamo visto? È quello che abbiamo detto, abbiamo detto tutti. La Lazio straordinaria, 19 punti, oggi ha perso a Empoli. Sì. Se l'Inter non se la porta da casa stasera con il Verona, mettiamo che vinca, può succedere, sì. No? Può battere l'Inter, il Verona va a un punto dalla Lazio che ha fatto cose straordinarie. Se il Napoli vince, sta pareggiando, vince a 21, l'Inter andrebbe a 18. Non vedo un quadro così. Ma assolutamente, il quadro dell'Inter non è catastrofico. L'abbiamo detto mille volte, cioè, se l'Inter avesse in panchina con gli stessi risultati e lo stesso gioco, un allenatore empatico, amato dai tifosi, è una squadra che dà la sensazione di lottare, di essere un po' scarsa ma che lotta. Con questa situazione di classifica, secondo me farebbe innamorare i tifosi. Questo è veramente un fatto quasi psicanalitico, di rapporto psicologico fra tifosi e allenatore, secondo me, più che i risultati. Certo, i risultati non sono straordinari, ma non sono neanche così tremendi. L'Inter ha fatto partite orrende, Cagliari, Fiorentina, Parma, e ha fatto partite incoraggianti. Insomma, il Sassuolo porta la sfiga, ma sembrava Real Madrid. Con l'Atalanta ha vinto molto bene in casa, ha vinto delle partite che non erano scontate, come quella in casa contro la Samp. In Europa League sta facendo piuttosto bene. Insomma, però la cosa non va bene, e questa sera, se lo speaker pronuncerà il nome di Mazzarri, arriveranno i fischi alla fine del primo tempo. Il tifoso, permesso questa cosa, la dico proprio, vuole essere, non è populista, è la verità. Il tifoso ha ragione. Il tifoso, ovviamente, nel limite della non violenza, il tifoso fa quello che gli pare. Se Mazzarri sta antipatico ai tifosi dell'Inter, che non si identificano in lui e lo vogliono fischiare, pagano il biglietto, hanno tutto il sacro santo diritto a farlo, ci mancherebbe altro. Il tifoso però tifa anche nel momento difficile, se no è troppo facile, va a teatro, si fa l'applauso, il fischio, a seconda che ti sia piaciuto o meno. È la differenza tra adesso, come tutte le squadre che calcio, sono un po' in difficoltà. Nemmeno a Napoli fischiano, ma tifano a favore nei momenti difficili. A Napoli, tifoseria straordinaria, l'altro giorno c'erano 12.000 persone con Young Boys. Contestazione no, però insomma. No, contestazione prima. Contestazione prima parte della stagione, e stiamo parlando di una delle tifoserie più calde d'Italia, quindi voglio dire, proprio. Ci fermiamo, perché ci fermiamo, ha detto, ci adesso fermiamo. Basta parlare di Napoli, che c'è, attenzione alla Fiorentina, riparte Bobacar, il tocco sulla sinistra, che accosta in mezzo De Luca, tutto a posto, l'ha presa con serenità Rafael. Due giri alla fine del Gran Premio, sempre Rosberg davanti in mezzo, secondo su Hamilton, sì, vanno avanti a correre. E quindi che succede se finisce così? Vanno ad Abu Dhabi, dove c'è il punteggio doppio, e ci vanno con Rosberg staccato di 17 punti. Ma ha già giocato il jolly, dobbiamo fermarci. Complimenti vivissimi, secondo me Pardo e Capuano sarebbero gli esterni ideali per un 4-4-2. Complimenti vivissimi. Tutti convocati. Napoli vicinissimo al gol. Eccolo qua. No, non devi dire eccolo qua, ma veramente De Luca. Niente, era vicinissimo, poi guarda, eccolo qua. C'è stata una palla gol vera. Ecco, la raccontiamo. Di rigore, ha provato il destro al volo e si è salvata tipo ammucchiata la difesa della Fiorentina. Ma ancora il Napoli che attacca con il tocco verticale verso Higuaín, troppo profondo, arriva Neto. 33 minuti 40 secondi qui a Firenze, giochiamo 0-0 qui a Firenze. Voi fate i toscani dietro, facciamo anche qui Interlagos, che vi dico il finale del Gran Premio, sì. Ha vinto Rosberg, secondo Hamilton, ecco. Terzo Massa, poi Button, Vettel, sesto Alonso, settimo Raikkonen. Massa era una vita che non andava sul podio, sbaglio? Sì, però correva in casa, ha preso anche una penalizzazione a inizio Gran Premio, ma insomma spinto da tutti i tifosi brasiliani. Esatto. Fattore campo determinante in Formula 1, come tutti sanno. Comunque 17 punti di vantaggio di Hamilton in classifica su Rosberg, e vanno così ad Abu Dhabi, dove ci saranno i punteggi doppi e dove si chiuderà il mondiale. Mi fate risentire quella cosa là di Mazzarri, che io sto ancora aspettando gli interisti che fischiano o no. Io voglio la testa di Mazzarri, calcisticamente parlando. Niente di meno. Mazzarri, io non so come vedete voi, è un incompetente. L'Inter gioca come gioca il Cagliari di Cera e di Riva. Buttatelo fuori, non se ne può più con questo mentecatto incompetente. Tutti dobbiamo concorrere a far sì anche che, se ci dovessero essere qualche momento difficile, si possa anche aiutare questa squadra, se si capisce che almeno come intenti cerchiamo di dare il massimo. Questo è un pochino che rientra in linea con quello che ha detto il Presidente. Volevo fare questa aggiunta perché a volte, come abbiamo visto a Saint-Étienne, siamo partiti bene e il secondo tempo un pochino le forze ci sono mancate, e in quel momento lì spero anche che dovesse esserci che la nostra gente ci dia una mano. E questo è Mazzarri di ragione, ieri. Ha ragione. Aspetta che lo chiediamo a Luisito Suarez. Oh, ciao Luisito. Ha ragione Mazzarri o hanno ragione quelli che fischiano? No, ma no, fischiare tanto per fischiare no. Adesso se ce l'hanno con lui è inutile che poi finiscono per danneggiare la squadra. Tanto più che bisogna capire una cosa. Tutte le altre squadre stanno aspettando l'Inter. Non scappa nessuna. Per cui bisogna mantenere un po' la calma e lasciarlo lavorare, e poi un po' alla fine vedremo un po' che cosa succede, no? Non è mai colpa di una persona quando c'è una situazione nel calcio che non va. È un sport dove giocano 11 più le sostituzioni, eccetera, eccetera. Non è il tennis. Che si sbaglia, sbaglia chi gioca lì. E allora, capisci? Perché lo vogliono mandare lì a Luis? Perché lo vogliono? Delicato, sono state quelle due sconfitte lì che sono state troppo brutte, che hanno messo tutto questo ambiente un po' particolare. Perché i tifosi dell'Inter lo vogliono mandare via? Perché è antipatico, perché non piace, perché non è elegante, perché non ha mai vinto scudetti? L'Inter è sempre molto, come ti potrei dire io, esigente, ma soprattutto c'ha molta fretta. Quando appena vede che non va le cose, già subito lo vuole cambiare, che succeda qualche cosa, credendo che questo è la soluzione. Ma tu il cuor tuo non è che l'Inter è una grande squadra al giorno d'oggi, capisci? No, io sono d'accordo. Detto questo, io mi aspettavo qualcosa in più da Mazzarri per la carriera eccezionale che ha avuto, perché Può darsi, sicuramente lui sta facendo magari qualche errore, avrà qualche colpa, ma non tutte, non possiamo darle tutte a lui. Cambiare per cambiare non serve a niente. Chi viene? Non si sa chi viene. L'allenatore cosa mette? Un ragazzino? Uno che viene da un altro paese? Cosa è? Cosa fa? Ma secondo te Zenga? Zenga ad esempio sarebbe adatto per prendere in corsa il signor Zenga? Ai tifosi piace? È 5 anni che è in giro di quelli là, i giocatori non le conosce, avrà bisogno del suo tempo. Poi sai, personaggi conosciuti, interiste, così, quando arrivano è evidente che l'appoggio del pubblico ce l'hanno, perché è una persona simpatica, è molto interista, eccetera. Però dopo, se non vince, anche a loro cominciano a rompere l'anima, non è che hanno pazienza con Zenga e non con altri. Per cui io sono del parere che bisogna mantenere un po' più la calma, tanto più che siamo ancora a dei punti di distanza non insalvabile, lasciarle lavorare un pochettino in pace. Vabbè, si giocano male, è giusto che lo fischiano, ma fischiare per fischiare non va bene. Ma ripeto, secondo me si è guastata molto la situazione nelle partite, soprattutto del Cagliari in casa e quella della Fiorentina dopo. E lì quelle due partite la gente l'ha presa molto molto molto male per come l'hanno giocato, per come le hanno perse. È vero, è vero. La saggezza del signor Suarez è totale. Ha fatto male bene il segno. Ginocchio destro. Ginocchio destro, spero ovviamente un grande in bocca al lupo. Viene portato adesso fuori dal campo. Ci sono anche degli applausi dei tifosi della Fiorentina, che ci fa piacere sottolineare. Sì, brutto infortunio di Insigne. Tu, Luis, hai vissuto mezzo secolo più o meno all'Inter, l'hai attraversata con mille ruoli, compreso quello dell'allenatore chiamato in corsa, ma hai mai vissuto una situazione così? Cioè, io comunque non ricordo, prima di Mazzarri, un allenatore fischiato a prescindere a San Siro dai tifosi dell'Inter, a prescindere qualunque cosa succeda, compreso magari un buon primo tempo. Secondo me l'avrebbero fischiato anche dopo il primo tempo di Saint-Étienne, che l'Inter ha giocato bene. Fosse stata San Siro, l'avrebbero fischiato lo stesso. Tu l'hai mai vissuta? Perché si è creata questa situazione che vi ho detto un momento fa, no? E adesso oramai quelli che hanno visto quelle partite, hanno la mente di quelle partite, contestano a prescindere, no? Invece di mantenere un pochettino la calma e aspettare a vedere come vanno le cose, perché non è ancora la situazione che non c'è più, diciamo, che non si può risolvere, nel senso di andare a giocarsi il terzo posto. Ci sono stati molti cambiamenti in società, ci sono state tante cose nuove, e allora insomma bisogna mantenere un po' la calma, non si può vincere di colpo. Ti piace Toir? Ma sai, possiamo, io almeno non lo conosco, non posso giudicarlo nemmeno, perché va e viene come insomma. Non ti ha chiamato, eh? No, ma intanto non mi conosce, ma lui giustamente chiama ai suoi uomini, la persona che lui conosce di più, che ha fiducia, vuole fare magari un certo tipo di sistema di squadra, e insomma sta tentando di lavorarlo con delle persone sue, giustamente, appena arrivato. Poi commetterà degli errori e le pagherà lui, no? Dopo vediamo. Senti, posso chiederti una cosa su un'altra tua ex squadra, visto che si parla poco di Genova? Dura la Samp? Dura? È dura? No, sì, no, dura, dura fino alla fine. Perché diciamo che le tre squadre potenzialmente che sono più forti sicuramente, stanno rallentando molto, stanno alternando, mentre che loro stanno andando bene e poi adesso hanno un buon entusiasmo, hanno fiducia, tranquillità, per cui hanno una squadra discreta, insomma, dai. Sì, discreta, che sta facendo un ottimo campionato. Molto bene, sta facendo più di quello che si pensava, dai. E lì è ancora terza, in questo momento, perché il Napoli sta pareggiando, e quindi è ancora lì la terza. Grazie, Luis. Certo. Ciao. Un abbraccio. Ciao, Luis. Buon lavoro. Ciao. Grazie a Luisito Suarez. Sì, abbiamo capito che lui non fischia. Ci mancherebbe. Ma non fischia, secondo me, è un atteggiamento di grande saggezza. Sai, come quella cosa che faceva Guzzanti, no? L'imitazione di La Porta. Saggezza, forse, senso del sacro. No, saggezza, cioè, giusto. Poi ripeto, il tifoso, però, finché ovviamente si comporta in maniera non violenta, ha tutto il diritto. Se Mazzarri sta antipatico, se il tifoso non ha fiducia in lui, insomma, non, chi siamo noi? Sì, c'è un amico che scrive l'Inter è prima nel girone d'Europa per puro caso, perché non gioca bene. A me sono queste le cose che fanno palla in mezzo, fanno impazzire poi del momento oggi dell'Inter. Non è tutto da buttare, però ripeto, qui c'è proprio un problema di empatia, cioè al di là di tutto un problema proprio di poca fiducia, simpatia. È come quando torni a casa da moglie non ti piace più, che devi fare? Dopo un po' ti dice io cannelloni ho cucina di bene, senti, tu lo stai dicendo, uno è sposato da 10 giorni, ma poi gli hanno fatto il mercato a Mourinho e gli hanno fatto il mercato a impatto zero a Mazzarri, Ancelotti. Che vuoi? Traffico, impatto zero, cosa ti traffico, c'è traffico, Nogaro le Rocca, Capuano, Genta e Pardo, mamma mia, da spavento. Tutti convocati. Bel Napoli, eh? Sì, meglio della Fiorentina, sicuramente fin qui siamo al 44esimo, però si rimane sullo 0-0 e chiaramente è una partita che può girare da una parte o dall'altra, ovviamente da un momento all'altro, però insomma questa ai punti meglio il Napoli. Attenzione alla possibilità ancora per Hamsik, che va in area di rigore. Hamsik con il mancino cerca un cross abbastanza incomprensibile, non è finita. Allora Lopez, possibilità per uno contro uno, c'è pressione dalle parti della bandierina fino in fondo, viene chiuso, sarà calcio d'angolo per il Napoli. Andiamo a bordo campo al nostro Carlo Genta. Carlo. Sì, siamo preoccupati per Insigne perché è uscito con quel ginocchio davvero malconcio e comunque Benitez sta continuando a spronare i suoi a dare il meglio. Andiamo da Auriemma, telecronista tifoso. Andiamo avanti, c'è calcio d'angolo, no, però dobbiamo impreciso crederci. Napoli, impreciso Napoli, impreciso, molto bene, porta, molto bene fino a tre quarti, molto bene fino a tre quarti, poi un po' di imprecisione nel... Cioè fin qui, valutando, no, c'è la famosa frase, mai schiavi del risultato. Attenzione, colpo di testa, gol del Napoli. Ecco cos'è il Napoli, no? Annullato. Perché? Adesso cerchiamo di capire perché. Non mi sembra scherzo. Posizione di fuorigioco. Parece più una spinta di Higuain. Però insomma, adesso rivediamo. Fuorigioco. No, fuorigioco. Posizione di fuorigioco c'era. Quindi una polemica in meno, grazie a Dio. Detto questo, fin qui stavo dicendo, lasciando perdere il risultato che finora è ancora di parità, c'è la sensazione che il Napoli sia veramente messo bene, in crescita, sta giocando meglio della Fiorentina. Sì, sul campo ho l'impressione che giocatori del Napoli, l'ambiente, abbia in testa che questa può essere una partita di svolta, cioè se il Napoli passa Firenze ti stacchi un po' da quelli dietro, ma secondo me cominci anche a ragionare su che tipo di stagione puoi fare, in fondo mancano, diciamo che nel dubbio la Juve partite. Ha scelto di vincere così, diciamo, di misura per dare un segnale anche psicologico alle inseguitrici nel pomeriggio, giocando sia prima della Roma che del Napoli, però il campionato è lungo e sicuramente insomma, ma se il Napoli dovesse passare oggi, però sarebbe intanto c'è Borja Valero dall'altra parte. 30 secondi al 46esimo, ancora Borja Valero, uno contro uno su Koulibaly, palla larga verso Iličić che ha ancora sulla coscienza, ti ricordi, nel finale della Coppa Italia, quell'errore clamoroso, qui sbaglia col mancino, palla larga. Sempre per la cronaca e per la classifica liquida, sarebbe per un paio d'ore il Napoli a un punto dalla Roma. Assolutamente, ma sì, per un paio d'ore, poi vediamo questa sera. Dai, facciamo allora il momento pronostico. Lo rifacciamo per le ultime due partite. Non mi ricordo che avevo detto l'altro giorno. Puoi dire quello che vuoi, perché adesso magari sono maturate. Avevo detto Inter Verona 2, però stavo un po' giocando. Inter Verona, sì, avevi detto Inter Verona 2. Allora lo ridico per coerenza. Comunque sei in media Zeman, i tuoi 4-5 per domenica. Come se Capuano facesse 8 tutte le settimane. Quanto fa Capuano, De Luca? 7-8. Finito il primo tempo, intanto 0-0 con la Fiorentina e Napoli. Inter Verona, Carlo. Vince l'Inter. No, anche secondo. secondo me vince. Ma vince anche secondo me, ma è un pronostico banale. No, io vado a tutto due. Io la caccia di una quota più interessante, no? 2 a 2 ci dicono dalla regia. Sì, dicono tutti, dicono tutti. Che succede? Ma che succede? Ma avete incominciato senza di me? Sono veramente stupito. Pronto? Ancora Cosmi. Serse, buongiorno. Pronto. Buon pomeriggio. Ero partito con aspettative completamente diverse. Senza il mio pronostico andate incontro a possibili defiance. Allora sì, facciamo così, perché se aspetto voi poi non facciamo niente. Allora facciamo il pronostico. Ecco, allora stasera si giocano 3 partite. Sì, no, sono due. Ah sì? Sì. Sono due, Inter-Verona, c'è Inter-Verona. Ma ovviamente l'Inter col suo 4-4-2 potrebbe correre, sì, un rischio tremendo. Sì, ma quale 4-4-2? Mazzarri gioca con la difesa 3. Ah, sì? Sì. Vabbè, comunque il Verona ha il suo asso nella manica che è Maxi Lopez. Sì, questo Maxi gioca... Lopez, Nico Lopez. Ah sì? Nico. Vabbè, insomma, cambia poco. L'Inter rischia una defiance sonora. Oh. Quindi mettiamo il 2. Inter Verona 2. Ah sì? Vabbè, Inter, dai, poi Roma Torino. Ma ovviamente la Roma potrebbe trovare difficoltà col suo schema 3-5-2. Sì, fa il 4-3-3, Serse. Garcia, ah, sì? Fa il 4-3-3. Vabbè, non è importanza. Ma il 4-4-2 di Ventura creerà, sì, capi tremendi. Alla anche Ventura fa un altro, anche che... Ventura fa un altro schema. Serse, dai, il pronostico Roma Torino, chi vince? La Roma? Vabbè, ma è meglio non sapere gli schemi, perché potrebbero ovviamente influenzarmi negativamente in maniera devastante. Quindi chi vince? La Roma? Lo dici tu che vince la Roma. Vabbè, se vince la Roma, allora questo non significa che non possa vincere il Torino, il Toro. Tutto molto chiaro, va bene, grazie Serse. Ma è ottima, devo grazie. Dire che vi ascolto sempre. Ottima, sì, ottima Radio Rai, bravi, bravi. Ma che Radio Rai, siamo Radio 24. Ciao ah, Serse, sì. Ciao. Pronostico chiaro più o meno come quello di Pierluigi Pardo, Vabbè, io, quello del nostro. Io mi intravedo. Io penso che chiaramente è più probabile che vinca l'Inter stasera. Detto questo, intravedo delle difficoltà ambientali che poi sono sempre le solite. L'Inter mi sembra una squadra che è sempre così sull'orlo di una crisi di nervi, perché può prendere una direzione positiva o negativa. Spesso e quindi è una partita che mi stuzzica dal punto di vista della quota. Poi non so neanche quant'è la quota, però. Ma credo sia bassa. Ma volevo fare un po' l'originale, ecco, tutto qua. Roma di recuperare, sennò poi mi dite la Roma non se la porta a casa. Io penso sia una partita complicata, penso che alla fine la Roma la porterà a casa, però non è assolutamente facile, perché in questo momento la Roma gioca per la prima volta da quando c'è Rudy Garcia anche un po' contro i suoi fantasmi, un po' contro se stessa. Forse l'unica volta che c'era stata una situazione di questo tipo era stata l'anno scorso, dopo la sconfitta di Torino, quando la squadra reagì veramente alla grandissima, una sconfitta molto pesante. Però adesso, quest'anno, sai, le aspettative sono molto più grandi, e poi ci sono gli infortuni. Torniamo al discorso di prima, questa squadra non ha avuto l'esplosione di Cole, non ha avuto le garanzie da Ole Bass. Torosidis è un giocatore normale e quando c'è Maicon ovviamente fa la differenza. A centrocampo ci sono degli infortuni, stasera Torres Strootman dalla panchina. Credo messo lì proprio per dare un segnale, Strootman, sì, in panchina, sì, ma non è ancora vicino, diciamo, il momento in cui potrà essere pienamente utile De Luca a Garcia. Ovviamente Serse Cosmi era il nostro Andromercu. Fa benissimo anche Vendola, faremo fare la schedina a Vendola la prossima volta. Comunque, insomma, sulla Roma, dai, siamo tutti d'accordo, quindi siamo tutti d'accordo che la Roma vince questa sera contro il Toro e poi ci consegna una pausa per le nazionali. Dopo c'è il derby di Milano, poi arriva Inter Roma. È un percorso ostacoli questa volta delle nazionali. Non ci sono ancora fuori le convocazioni, però dovrebbe essere sicuro il ritorno di El Shaarawy. Sai che io sono ormai, mi piacerebbe quasi di più il accorpare tutto in un mese. Sì, ma a tutti piacerebbe di più, prima. Perché è una cosa, quest'anno non lo so, forse sono io che la mio male. Gli altri anni no. Cioè, in una mi sono inventato il matrimonio per cercare di sfangarla e devo dire andrà benissimo, sono strafelice. Adesso a novembre, ma che mi invento? È drammatico. Ti separi? No, quella di febbraio fai il divorzio. Febbraio, la pausa, basta. C'è il grande classico del campionato con il coito interrotto, una giornata e poi fermi. Esatto. Poi fanno queste pause a novembre. A novembre siamo devastati, non possiamo neanche andare a Ponza sul gommone. Cioè, è una situazione drammatica. È molto drammatico. Partiamo con Platini. Quindi lanci un appello. Ma ti dico che voleva fare, vuole esatto. fare tutto alla fine. Lanci un appello perché vengano abolite le pause per la nazionale. No, Pavini, andiamo, c'è posto sul gommone, sì. Va bene, siamo quasi in chiusura. Allora, lo ricordiamo, tra l'altro ricordiamo che oggi Valentino Rossi ha chiuso secondo il Gran Premio a Valencia, secondo anche in classifica, ce lo chiedeva qualche amico da casa, si candida così l'anno prossimo a ricominciare davvero avversario di Marquez. Grande stagione, non ci capisco nulla di moto, ma mi pare aver intuito che è stato veramente grande. Grande stagione anche della famiglia Marquez. Ma non se ne può più, non se ne può più dell'Eno Spagnolo alla fine dei Gran Premi, di questi che vincono tutto. Ha vinto anche il fratellino, palle così. Campione del mondo della Moto3. Campione del mondo, oltre che ovviamente il roster del Verona. Slellas che c'ha Rafa Marquez e Rafa Marquez, voglio dire, stasera. Voglio dire, poi Rosberg, Hamilton, Massa, Button, Vettel, Alonso, Raikkonen sono invece i primi sette del Gran Premio del Brasile che si è chiuso da poco. Hamilton resta in testa alla classifica del mondiale, andrà ad Abu Dhabi con 17 punti di vantaggio su Rosberg. Ci fermiamo qui, sì, appuntamento con voi domani a partire dal GR delle 14. Fuori dubbio che domani così mi andava di fare questa cosa. È fuori di dubbio. Noi ci sentiamo di nuovo domenica dalle 17 alle 19. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Pietro Laccorte, Fabio Cantadori che si sono alternati in regia. Ciao. I Foretti, arrivederci.